Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buon Natale e ben ritrovati con una nuova puntata di Radio Doc. Vi proponiamo, in collaborazione con History Channel, un radiodocumentario sulla straordinaria vita di Pietro, l'apostolo scelto da Gesù per guidare la sua chiesa. Questa è la storia di un umile pescatore che ha abbandonato tutto per cominciare una nuova missione. Impetuoso e a volte perfino aggressivo, Pietro deluse Gesù miseramente. Nonostante i ripetuti sbagli, il maestro lo scelse come suo successore e promotore di quel movimento che sarebbe poi divenuto noto come la prima chiesa cristiana. Per la sua capacità di far comprendere il messaggio di Dio alle masse, Pietro divenne un uomo molto potente. La sua missione apostolica si concluse a Roma con il martirio, durante le persecuzioni anticristiane ordinate dall'imperatore Nerone. L'8 aprile del 2005, 300.000 persone si ritrovano in piazza San Pietro a Roma per piangere la morte di Giovanni Paolo II. Il Collegio dei Cardinali, in riunione privata in Vaticano, designa il successore della figura religiosa più potente al mondo, il Papa. Benedetto XVI è il 265esimo Papa, l'ultimo di una successione spirituale che risale al primo secolo d.C., all'uomo che divenne il primo apostolo di Gesù, San Pietro. La saga di Pietro comincia intorno all'anno 28 d.C. Pietro è un umile pescatore ebreo che si guadagna da vivere al largo delle coste della Galilea nell'antico Israele. L'Israele di Pietro è un regno semi-indipendente, sottoposto al dominio dell'impero romano. La corrotta monarchia ebraica collabora con l'occupazione romana. Gli ebrei devoti come Pietro si sentono oltraggiati dalla violazione dei luoghi sacri. Pietro sa che le sacre scritture ebraiche hanno annunciato che un giorno Dio manderà un Messia per salvare gli ebrei, il popolo eletto di Israele. Pietro sente dire che un uomo che potrebbe essere il Messia è stato avvistato nella regione. Il suo nome è Gesù Cristo e sostiene di essere il figlio di Dio. Pietro è impaziente di incontrarlo. Un giorno ne ha finalmente l'occasione quando Gesù appare sulla spiaggia circondato da una folla di curiosi. Reverendo Josef Kug, parroco della chiesa di St. Margaret. Gesù sta cominciando a predicare e si trova in piedi lungo la riva, ma gli occorrerebbe un posto da dove può essere visto e sentito da tutti. Pietro sta rientrando, ha finito di pescare per quel giorno, sta pulendo la barca e le reti. Gesù lo chiama e gli dice: allontana un poco la barca dalla riva, e si mette a predicare dalla barca. Così Pietro diventa una specie di spettatore forzato. Finiti i suoi insegnamenti, Gesù si volta e dice: usciamo a gettare le reti. Pietro è sorpreso dalla richiesta di Gesù. Pietro risponde: ho pescato tutto il giorno senza avere molto successo e ora non mi va di tornarci. E Gesù gli dice: cerca di accontentarmi, andiamo. Al momento di tirare sulle reti, queste sono gonfie di pesci. Quando Pietro vede quello che Gesù ha fatto, si mette in ginocchio e implora il perdono. Pietro si sente umiliato per aver dubitato. Solo un autentico Messia può compiere un simile miracolo. Gesù gli dice di alzarsi e unirsi a lui nell'opera di divulgazione della verità. Gesù diffonde un messaggio di amore e fratellanza, una nuova via verso la salvezza attraverso la fede e il perdono, e sta riscuotendo enormi consensi fra la gente comune come Pietro. Per l'autorità religiosa ebraica locale, il Sinedrio, Gesù rappresenta una minaccia. Per il Sinedrio Gesù è un problema. Si esprime apertamente contro avidità e corruzione e caccia gli usurai dal tempio. Pietro ne rimane impressionato, abbandona la sua attività di pescatore per dedicarsi a Cristo. Pietro non è istruito, ma è temerario e ambizioso. Gesù lo nomina capo della futura chiesa e gli promette le chiavi del regno dei cieli. Matteo 16:18. E io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Gesù non vuole un intellettuale alla guida della sua chiesa. Ha bisogno di una persona aperta alle nuove idee e disposta a imparare dai propri errori. Per diffondere il suo messaggio in tutto Israele, Gesù invita altri 11 emissari o apostoli a unirsi a lui. Pietro è il più schietto, ma all'inizio tradisce la fiducia che Cristo ha riposto in lui. L'apostolo Pietro lascia la sua vita da pescatore per dedicarsi completamente a Gesù e in cambio Gesù fa di lui il capo degli apostoli. Pietro e gli apostoli non sono solo dei seguaci di Gesù, ma sono i prescelti che annunceranno la parola di Gesù e convertiranno le masse. Anne Brock, autrice del libro Maria Maddalena, il primo apostolo. Gesù aveva molti discepoli intorno a sé e i discepoli sono seguaci. Aveva decisamente molti seguaci, ne aveva tantissimi. Ma essere un apostolo significa occupare una posizione più alta. Un apostolo non è semplicemente qualcuno che impara dal maestro come fa un discepolo, bensì qualcuno che è stato scelto per divulgare la buona novella. Pietro è entusiasta, vuole imparare da Gesù. Trasforma perfino la sua casa a Cafarnao in un ufficio per la nuova missione. È una missione di miracoli. I poveri, i malati e i dementi gremiscono la casa per ricevere il tocco guaritore di Gesù. Per 3 anni Pietro e gli altri apostoli imparano da Gesù e sono testimoni dei suoi miracoli. Pietro comprende che con la fede in Cristo tutto è possibile. Dottor John Gager, Università di Princeton. Ogni volta che gli viene data l'opportunità di dire o fare la cosa giusta, lui sbaglia tutto. Pietro è un perfetto imbranato che commette un errore dopo l'altro. Se Pietro deve essere a capo della futura chiesa, non può più fare errori. Gesù è destinato a morire sulla croce per redimere i peccati degli uomini. Fa parte del disegno di Dio. Quando Gesù lo rivela a Pietro, questi rimane inorridito. Gesù è irritato con Pietro perché si vuole opporre al disegno di Dio. Un tentativo di Pietro di salvare Gesù sfiderebbe la volontà divina. Ma Gesù non perde la speranza. Pietro inciampa spesso, ma non si dà per vinto. La perseveranza sarà la migliore dote di Pietro nei tempi difficili che lo aspettano. Quei tempi arriveranno molto prima di quanto egli possa immaginare. Per 3 anni Gesù ha preparato il suo apostolo Pietro a prendere il suo posto, ma questi si rifiuta di credere che il figlio di Dio morirà. Una sera, a Gerusalemme, Gesù riunisce Pietro e gli altri apostoli per la tradizionale cena di Pasqua. Soltanto Gesù sa che quella sarà la loro ultima cena insieme. Come ultima dimostrazione di fratellanza, Gesù si offre di lavare i piedi a Pietro prima di cena. Catherine Valentine, autrice del libro A Wing and the Prayer. Cristo gli stava lavando i piedi durante l'ultima cena e gli disse: faccio questo per dimostrarti che sono un servo. Pietro disse: no, non puoi lavarmi i piedi, è come un insulto, nessun rabbino lo farebbe per un suo studente. E Gesù gli disse: se non me lo lasci fare non puoi essere un mio discepolo. Così Pietro rispose: d'accordo, allora lavami le mani e il capo. No, Pietro, è solo per farti vedere che devi diventare un servo per chiunque se vuoi essere mio discepolo. Durante la cena Gesù ricorda agli apostoli che la sua vita finirà presto, che sta per essere sacrificato da Dio Padre per redimere i peccati del mondo. Pietro promette che seguirà Gesù fino alla fine. Pietro credeva di sapere tutto, anche come avrebbe reagito in certe situazioni. All'ultima cena Cristo disse agli apostoli che lo avrebbero rinnegato. Allora Pietro si alzò e disse: io mai, mai ti rinnegherò. Gesù lo guardò, probabilmente con amore, perché conosceva il suo cuore, ma anche la sua natura mortale. E gli disse: Pietro, non canterà oggi il gallo prima che tu per 3 volte avrai negato di conoscermi. Dopo la cena, Gesù conduce Pietro, Giacomo e Giovanni nel giardino del Getsemani. Mentre Gesù sente l'angoscia per la sofferenza ormai prossima, i suoi discepoli si addormentano. Gesù sveglia i suoi apostoli pochi istanti prima che le guardie dell'alto tribunale ebraico, guidate dall'apostolo Giuda, il traditore, vengano ad arrestarlo. Gesù sa che Pietro non può modificare il suo destino, l'arresto fa parte del disegno di Dio. Pietro e Giovanni seguono Gesù di nascosto per vederlo durante il processo davanti ai ministri del culto. Mentre le guardie portano Gesù in tribunale, lo colpiscono crudelmente e lo deridono. Giovanni si insinua nel tribunale per assistere al processo, mentre Pietro resta fuori. A Pietro viene chiesto 3 volte dai presenti se è un seguace di Gesù. La 3ª volta Pietro è preso dal panico. All'improvviso sente il canto di un gallo. Catherine Valentine, autrice del libro A Wing and the Prayer. Uno dei Vangeli narra che in quel momento il suo sguardo incontrò quello di Gesù. E immaginate i suoi pensieri. Non posso nascondermi. Lui ha sentito il gallo, sa che cosa ho fatto. Come mi vergogno. Corse fuori dal cortile e pianse amaramente. Il sogno di Pietro di un messia per il popolo ebraico è ormai infranto. Gesù doveva essere il grande redentore, ma ora viene condannato a morte come un criminale comune. Pietro e gli apostoli fuggono. Cristo è condannato alla crocifissione dal governatore romano Ponzio Pilato. Soltanto un apostolo e alcune donne fedeli assistono all'orrore. Durante le ore che trascorre agonizzante sulla croce, Gesù sicuramente desidera la presenza di Pietro, ma Pietro si è reso irreperibile. 3 giorni dopo la morte di Cristo avviene un miracolo. Gesù risuscita dai morti e appare davanti a Pietro e agli apostoli. La resurrezione di Cristo dà a Pietro una nuova speranza di salvezza. Ma per Pietro la resurrezione è anche un brutale ricordo del suo tradimento. Non si sente più degno di enunciare la parola di Cristo. Pietro rinuncia a predicare e torna alla sua vecchia vita di pescatore. Ma Cristo non rinuncia a Pietro. Un giorno, durante la pesca, Pietro vede uno straniero sulla spiaggia. Reverendo Earl Cooperkamp, chiesa episcopale St. Mary. Pietro comincia a riconoscere quello straniero, ed è Gesù. Fanno colazione insieme. E là, vicino al fuoco, Gesù chiede a Pietro: Pietro, tu mi ami? E Pietro risponde: sì, Signore, lo sai che ti amo. Gesù dice: allora nutri il mio gregge. E gli chiede una seconda volta: Pietro, tu mi ami? E lui dice: sì, Signore, lo sai che ti amo. Bene, Pietro, guarda i miei agnelli. Poi gli chiede una terza volta, ed è importante: Pietro, tu mi ami? Pietro si infiamma. Ha risposto a questa domanda già 2 volte. Sì, Signore, dannazione, te l'ho detto già 2 volte, lo sai che ti amo. Allora nutri il mio gregge. Pietro ha rinnegato Gesù 3 volte, e 3 volte Gesù chiede: Pietro, tu mi ami? Credo che questo dia a Pietro la possibilità di redenzione con la stessa forza con cui ha rinnegato Gesù. Gli viene offerta ancora una volta l'occasione di redimersi. Pietro e gli altri apostoli rinnovano il loro giuramento di fede. Gesù quindi li investe del potere dello Spirito Santo, la divina ispirazione a diffondere la parola di Dio e il potere di fare miracoli. Poi Cristo sale in cielo, lasciando Pietro e gli apostoli a continuare da soli il loro compito. Forte del dono dello Spirito Santo, Pietro diventa un coraggioso leader. La sopravvivenza della cristianità ora è affidata al potere e all'autorità di Pietro. Egli sta per affrontare la sua prima prova. Gesù Cristo è risorto dai morti e ha perdonato l'apostolo Pietro per il suo tradimento. Adesso tocca a Pietro dimostrare il proprio comando. 50 giorni dopo l'ascensione di Cristo in cielo, tutta la città di Gerusalemme celebra la Pentecoste, festività ebraica che ogni anno segna la fine del raccolto. Migliaia di pellegrini ebrei provenienti da paesi diversi, Egitto, Grecia, Siria e dall'Asia, sono arrivati in città per festeggiare e pregare. Lungo le strade si sentono parlare decine di lingue diverse. Quando Pietro e gli apostoli si riuniscono in un luogo vicino al grande tempio di Gerusalemme, sentono uno strano suono. Quando la fiamma arde sulle teste degli apostoli, essi sono pervasi dallo Spirito Santo. Entrando nel tempio, si accorgono di poter predicare in tutte le lingue dei pellegrini presenti. Reverendo Calvino Batz III, pastore della Chiesa Battista. Ebrei da tutto il mondo ascoltavano il Vangelo, ascoltavano quegli uomini che parlavano di Dio e di Gesù nella loro lingua, e dissero: questi uomini sono di Galilea, eppure parlano la nostra lingua. Quando tra la folla ci si rende conto che si possono capire le parole degli apostoli nelle varie lingue, la concitazione è grande. Qualcuno resta sbalordito. Qualcun altro pensa che gli apostoli siano pazzi o ubriachi. Quel giorno 3.000 persone si fanno avanti per essere battezzate e seguire la via di Cristo. Si pentono dei loro peccati e diventano serve di Dio. Pietro è ora al potere. I malati e i dementi vanno a trovare Pietro a Gerusalemme. Lui cura i bisognosi, guarisce un paralitico e resuscita dalla morte la figlia di un sacerdote. Pietro sfrutta l'occasione. I suoi enfatici sermoni persuadono migliaia di israeliti che Gesù Cristo è vivo nello Spirito e tutti quelli che credono in Lui entreranno nel Regno dei Cieli. Quando Pietro e gli altri apostoli evangelizzano il Regno di Israele, il movimento cresce a velocità inaudita. Le autorità ebraiche a Gerusalemme sono di nuovo preoccupate. Secondo gli Atti degli Apostoli, Pietro viene trascinato davanti alle autorità ebraiche, ma questa volta non rinnega Gesù. Rimane impavido di fronte ai membri del Consiglio e dichiara che la fede in Cristo è la loro unica speranza di salvezza. Pietro e gli apostoli vengono circondati e catturati. 39 frustate, quante ne ha ricevute Gesù prima della sua morte. Ma a loro la crocifissione viene risparmiata. Un sacerdote saggio sa che il martirio accenderebbe la scintilla. È meglio aspettare che il movimento si estingua per conto suo. Da questa punizione la passione di Pietro esce intensificata. È disposto a sopportare qualunque sofferenza per onorare il maestro che una volta ha tradito. Pietro e gli apostoli continuano a predicare e ad insegnare la parola di Cristo a Gerusalemme, finché il re Erode Agrippa non assume il comando del regno di Giudea. Dottor Bruce Chilton, Bard College. Erode Agrippa era cresciuto a Roma e aveva conosciuto personalmente i membri della corte imperiale, inclusi futuri imperatori. Di conseguenza, quando salì al potere, cercò di consolidare la sua posizione. E un modo per farlo era assecondare l'amministrazione del Tempio, che era sempre stata ostile al movimento cristiano e ne perseguitava i sostenitori. Pietro si oppone apertamente all'amministrazione e continua a predicare. Erode fa arrestare e incarcerare Pietro, questa volta con la promessa di una condanna a morte. Reverendo Joseph Coog, parroco della chiesa di St. Margaret. Pietro viene arrestato diverse volte durante il suo apostolato, ma c'è un episodio negli Atti, capitolo 12, dove Pietro è in prigione. È in mezzo a due guardie, incatenato a loro, e nel bel mezzo della notte, mentre tutti dormono, appare un angelo che sveglia Pietro e gli dice: «Vieni, andiamo». Le catene cadono dalle sue mani e dai piedi, e viene portato fuori. Il cancello si apre e lui è fuori. Ancora una volta, Pietro ha sfidato la morte. Ma ora dovrà affrontare la sfida più grande per il suo compito, un movimento diviso. L'apostolo Pietro è diventato un capo autorevole del movimento cristiano. Per la sua temerarietà ha ottenuto migliaia di conversioni in Israele ed è finito in prigione due volte. Adesso affronta una sfida più difficile. Mentre la nuova religione fiorisce, si è venuta a creare una divisione nel movimento. La cristianità arcaica, infatti, è una setta del giudaismo. Fino ad ora, Pietro ha limitato la sua evangelizzazione ai soli ebrei. Le antiche scritture ebraiche affermano che gli ebrei sono il popolo eletto di Dio e il giudaismo è la sola religione che lui conosce. Sebbene il cristianesimo stia prendendo piede, la maggior parte degli ebrei non accetta il movimento. Esso rappresenta una minaccia per la tradizione ebraica. Capo degli oppositori è un uomo di nome Paolo. Paolo è un rabbino, è membro del governo ebraico e anche un crudele oppressore di cristiani, finché non ha una visione abbagliante. Nella visione, Gesù lo chiama a diventare un apostolo e a predicare ai popoli di ogni nazione. Dottor Richard Valantasis, della facoltà di teologia ADIF. Quando Paolo dice: «Dio mi ha chiamato ad essere l'apostolo di Gesù Cristo presso i gentili», ci dice che, dal suo punto di vista, i gentili sono rimasti fuori dal quadro, quel quadro di salvezza, di redenzione, che include il popolo di Dio. E bisogna dare anche a loro l'opportunità di essere redenti, salvati. Paolo si converte immediatamente e comincia a divulgare la parola di Cristo tra i gentili. Secondo Paolo, i gentili non solo possono convertirsi, ma non dovranno seguire le leggi ebraiche, leggi che prevedono la circoncisione per tutti i bambini maschi, l'astensione dal lavoro il sabato e la stretta osservanza delle regole alimentari. Paolo si rende conto che per legittimare la sua missione gli occorre l'approvazione del capo del cristianesimo. Così viaggia fino a Gerusalemme per incontrare Pietro. Pietro e gli altri apostoli comprensibilmente dubitano di Paolo, ricordano bene che egli ha tentato di annientare il movimento cristiano. Dottor John Gager, Università di Princeton. Mi sarebbe piaciuto essere presente. Ci troviamo a Gerusalemme. Gli apostoli di Gesù sono in una stanza quando si sentono dei colpi alla porta. Qualcuno va ad aprire. E chi è il visitatore? È Paolo. E Paolo dice: «Ho una notizia per voi. Sapete, ho avuto una rivelazione. Gesù Cristo mi ha chiamato per diventare il suo apostolo presso i gentili». A questo punto o gli hanno sbattuto la porta in faccia o sono volate parolacce. Secondo Pietro, Gesù era il Messia di Israele. E secondo Pietro, i gentili non erano al centro della storia. E adesso arriva Paolo a tirare dentro anche i gentili. Pietro rifiuta l'interpretazione di Paolo sulla missione cristiana finché non fa un sogno. Kenneth Davis, autore del libro Don't Know Much About the Bible. Nel sogno c'è una grande abbondanza, come una tavola imbandita con una tovaglia sopra. Tutto il cibo è caduto sulla tovaglia ed è tutto buono da mangiare. In altre parole, non c'è differenza tra ciò che è pulito e ciò che non lo è. Questo è un momento cruciale per la storia della Chiesa, perché è il momento in cui si accorgono che non devono rimanere come una setta chiusa all'interno del giudaismo, bensì possono arrivare all'intera società dei gentili, la società non ebraica. Dopo la visione, Pietro comprende che Paolo ha ragione. Cristo ha aperto la Chiesa a tutti i popoli. Pietro, coraggiosamente, fa il suo annuncio in pubblico. Ma si scontra con la violenta opposizione di un gruppo di puristi, diventato potente a Gerusalemme. Essi pretendono che ogni cristiano convertito debba attenersi alle rigide leggi ebraiche. Pietro è diviso fra Paolo e i puristi. Quando il conflitto giunge a un punto morto, gli apostoli convocano il consiglio a Gerusalemme per risolvere la questione definitivamente. Pietro, Paolo e altri discepoli si riuniscono per comprendere insieme dove la Chiesa stia andando e non chiamano se stessi cristiani, ma seguaci della via. In effetti la questione è: si può essere seguaci di Gesù se non si è ebrei? È un punto di svolta importante nella storia della Chiesa arcaica. Pietro darà il voto decisivo. Dopo un animato dibattito, Pietro si schiera ufficialmente con Paolo. I gentili potranno far parte della Chiesa senza seguire le leggi ebraiche. Dall'unione di Pietro e Paolo ha origine la nascita del cristianesimo come religione a diffusione mondiale. Pietro, un ebreo devoto, diventa, per ironia della sorte, il simbolo della più potente istituzione cristiana di oggi, la Chiesa Cattolica. Ma prima deve fare un viaggio rischioso nel cuore dell'impero romano. Nella diatriba sul futuro del cristianesimo, gli apostoli Pietro e Paolo hanno deciso che la Chiesa cristiana sarà aperta a tutti i popoli, non soltanto agli ebrei. Dopo questo episodio, Pietro scompare dalle pagine della Bibbia. Ma secondo una leggenda, Pietro intraprende un'odissea evangelica attraverso l'Asia Minore e la Grecia, lasciando una scia di conversioni lungo il suo cammino. In ultimo, contribuisce a portare il cristianesimo nel cuore dell'impero romano. Dottor John Gager, Università di Princeton. Pietro doveva andare a Roma. Era il centro dell'impero, doveva essere una sede sicura. Se sei un artista, non vai in una città qualunque. Vai a New York o a Los Angeles. Così lui non si accontenta di una città dell'Asia Minore. Vuole giocarsi le sue carte a Roma. Ed è lì che si diresse. Secondo la tradizione, Pietro arriva a Roma durante il regno dell'imperatore Nerone. Nerone non riconosce altro Dio se non se stesso e disprezza i cristiani. Nel 64 d.C. c'è un grande incendio che devasta Roma. Molti pensano che lo abbia appiccato lo stesso Nerone per poter ricostruire la città. Sebbene Pietro riesca a sfuggire a questo orrendo destino, viene arrestato e messo in prigione. Questa volta non ha scampo, viene condannato alla crocifissione. All'ultimo momento fa una speciale richiesta. Anche in punto di morte, Pietro riconosce di aver deluso il suo Signore molte volte. Dopo più di 30 anni di fedele apostolato, si considera ancora indegno del suo maestro. Oggi, il più glorioso dei templi sacri, la Basilica di San Pietro, è collocato sul sito dove si suppone che Pietro abbia esalato l'ultimo respiro. Il cristianesimo, a Roma, comincia ad acquistare potere nel secondo secolo e ha bisogno di un sacro rappresentante che rivendichi l'autorità divina. Essendo l'apostolo scelto da Gesù, Pietro è la figura più adatta. Dottor John Gager, Università di Princeton. Dal momento che la Chiesa romana cercava di stabilizzarsi, cercava di legittimarsi, era molto importante che consolidasse in particolar modo il suo potere, e il sistema che adoperò fu quello di ricordare che discendeva direttamente dalla figura di Gesù. C'era una linea che collegava Gesù a Pietro. Ma prima bisogna attendere il IV secolo, quando il cristianesimo viene dichiarato religione ufficiale dell'impero romano. Solo allora Pietro è indicato come primo vescovo di Roma, il Papa. Nonostante le rivendicazioni della Chiesa, alcuni studiosi sostengono che la morte di Pietro a Roma è pura leggenda. Che la sepoltura di Pietro a Roma sia un fatto o pura leggenda, la Chiesa cattolica è cresciuta sotto la sua autorità divina. Pietro detiene il titolo di primo papa da oltre 1600 anni. Oggi più di 1 miliardo di persone considerano il papa il proprio leader. Come sovrano della città del Vaticano, il papa è l'ultimo monarca assoluto europeo. Mentre il cristianesimo si è unificato ed è divenuto la religione degli imperatori, si è allontanato dalle sue radici ebraiche. Nella Bibbia, Pietro apre le porte del cielo ai gentili, in modo che tutto il genere umano possa ricevere da Gesù il dono della salvezza e del perdono. Non immagina che dalla sua decisione deriveranno 2000 anni di ostilità. Nell'anno 2000, Papa Giovanni Paolo II compie uno storico viaggio per andare a pregare al Muro del Pianto a Gerusalemme, in un tentativo di saldare la frattura tra Chiesa Cattolica e Giudaismo. È il primo Papa, dopo Pietro, a pregare in quel luogo. Le azioni di Giovanni Paolo II ricordano lo spirito di redenzione nella storia di Pietro. Non importa quanti errori commetta, egli è sempre disposto a chiedere perdono a Dio. Oggi, in tutto il mondo, durante la messa, i cristiani ricordano le umane imperfezioni di Pietro. Ma mentre la fede cristiana vede l'alba del suo terzo millennio, la pietra continua ad essere il simbolo di determinazione e devozione. Vi segnaliamo che su History Channel, oggi a mezzanotte, andrà in onda la prima parte del documentario intitolato La vera famiglia di Gesù. Radio Doc si chiude qui e vi dà appuntamento per un'altra puntata speciale domani mattina alle 7:30.